i paesi europei stringono le maglie contro il Covid-19. La Francia annuncia un vero e proprio blocco delle attività, un lockdown, ma lascia aperte le scuole di ogni ordine e grado. La Germania limita fortemente le attività possibili e lascia aperte le scuole. In Italia si discute se servano provvedimenti diversi, se si debbano fermare Roma e Napoli, mentre la Puglia decide di chiudere tutte le scuole, tranne le materne. I dati di ieri ci parlano di altri 125 ricoveri in terapia intensiva, ora sono 1.500 e altri 1.000 ricoveri in assoluto, sono 14.000. La soglia di sicurezza di occupazione delle rianimazioni, che è al 30%, è stata superata in 5 regioni, mentre in una sesta, la Lombardia, siamo ad un passo. Restano alte le tensioni nella maggioranza sul decreto, sull'ultimo decreto di Conte, mentre anche ieri ci sono state proteste in piazza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Eccoci qua, sono le 6:31 minuti e 30 secondi, è giovedì 29 ottobre. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo qua. Purtroppo siamo di nuovo qua a raccontarvi di questi numeri e di queste preoccupazioni che ci avvolgono. Siamo qua anche con voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Come vi sto dicendo in questi giorni, la cosa più importante in questo momento sono le vostre testimonianze. Raccontateci un po' come stanno andando le cose, se lavorate in un ospedale, se vi siete ammalati di Covid. Stiamoci vicini. Se siete isolati, se avete trovato dei problemi, come tanti ne stiamo trovando, per esempio sul fronte della medicina territoriale. E anche, francamente, che cosa ne pensate di questa cosa della scuola? Perché nei giorni scorsi ne abbiamo discusso tantissimo, ne abbiamo parlato. Alcuni di voi hanno detto, sì, però le scuole sì, sono in effetti una fonte di contagio, perché poi i ragazzi fuori da scuola si parlano, si incontrano, si tolgono le mascherine, poi c'è la parte dei trasporti. E però, ripeto, ci troviamo con due grandi paesi europei che fermano praticamente tutto. La Germania un po' meno, la Francia un po' di più. E però cosa fanno? Le scuole le lasciano aperte. Aperte, mentre ieri la Puglia le ha chiuse tutte, tranne le materne. Dunque, 349-238-6666. Soprattutto le vostre voci, ma anche, se volete, messaggi scritti, SMS, messaggi su WhatsApp. Ieri è stata una giornata di, ancora in alcuni luoghi, di proteste di piazza, per esempio a Bari. Napoli, dove hanno protestato i bus turistici, meglio le aziende, i proprietari dei bus turistici, no? E poi proteste ci sono state anche a Verona con qualche preoccupazione anche che è arrivata nelle scorse ore da parte del Viminale. Bisogna scindere, dice la sindaca di Torino Appendino, nella quale ci sono, città nella quale ci sono state le manifestazioni più violente nei giorni scorsi, bisogna distinguere chi manifesta da chi distrugge. Noi adesso ci stiamo concentrando molto sulle piazze che si stanno in qualche modo manifestando, e io penso qui che si debba scindere tra chi, ad esempio noi a Torino abbiamo avuto due fenomeni, no? Una piazza, sì, dove c'erano commercianti, partite IVA che hanno protestato in modo pacifico e legittimo, e poi abbiamo visto invece dei piccoli gruppi organizzati che io definisco oggettivamente dei delinquenti che sono scesi in strada per distruggere. La cosa più importante, dice Appendino, per calmare tutto questo è la velocità dei ristori, dei provvedimenti del governo, la velocità del governo è un messaggio importante, dice. i cittadini e le cittadine abbiano bisogno di messaggi chiari, di non vedere istituzioni che litigano tra di loro e di tutele immediate. Io penso che la velocità con cui il governo sia intervenuto sia un messaggio importante. Conte ieri ha fatto il punto in Parlamento sull'entità dei ristori. Contiene interventi, questo decreto legge, per 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto per le attività dei comparti interessati dalle disposizioni del nuovo DPCM, con livelli di ristoro differenziati a seconda dell'intensità del danno economico, del pregiudizio economico subito dalle categorie. L'entità degli importi corrisposti varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dal decreto rilancio. E la stessa Appendino, ieri era ospite di Agorà, dice: monitoreremo il governo su questo fronte. Importantissime le tutele economiche, e noi insieme alle associazioni di categoria locali abbiamo costituito un tavolo di crisi permanente con la prefettura e la regione, e monitoreremo anche sulla capacità del governo di erogare velocemente, su questo io sono ovviamente fiduciosa, e lavoreremo anche su interventi aggiuntivi da affiancare a quello che ha fatto il governo. Cioè, in questo momento non possiamo permetterci di perdere queste imprese. Così Appendino, quindi sì, voglio rassicurare qualche ascoltatore, dice: ah, ti arrivano i miei messaggi. Sì, arrivano, è un autista di autobus da Padova che ci dice, Alessandro, dice: e adesso se ne sono accorti, scusate la calata romana, se ne sono accorti del problema dei trasporti. Eh sì, adesso, no, l'abbiamo segnalato tutti quanti da prima, però se ne sono accorti un po' tardi, e le regioni hanno mancato di spendere a quanto pare 180 milioni che erano stati disposti prima dell'estate, se ne sono dimenticati. Dove sono questi 180 milioni? Chissà, sono rimasti là nelle pieghe dei bilanci, Che nervi. La scuola, va, sentiamo Emiliano. A noi risulta che l'innesco in Puglia, quindi l'inizio dell'incremento, il rialzo di tutti i dati, coincide temporalmente con quello della riapertura delle scuole. Assolutamente c'è una coincidenza temporale e un incremento dei contagi scolastici, che sono centinaia e centinaia, che corrisponde alla diffusione del contagio all'interno dei nuclei familiari, che in questo momento sono, tra feste, comunioni ed altre circostanze, sono i focolai principali che ci sono in Puglia. Questa coincidenza è obiettiva ed è bene che il paese se ne renda conto. Cara Elisa Calessi, inviata di Porta a Porta, collaboratrice di Libero, come stai, Elisa? Sempre là cadiamo, eccoci sempre, qua. Sempre sulla scuola cadiamo, e il raffronto, devo dirti la verità, poi per carità, magari è un po' una fissazione mia, non lo so, però il raffronto con Germania e Francia è impietoso su questo fronte, mi pare, che dici? Sì, mi sembra uno scandalo che adesso si dia la colpa alla scuola, anche perché stiamo pagando ritardi su vicende che erano ben note, il caos che si sta creando nei trasporti è clamoroso. Io l'altro giorno ho fatto un servizio per Porta a Porta raccontando un treno di pendolari. Allora, lì non c'erano studenti, cioè ci sono migliaia, centinaia di treni di pendolari, metro pieni di lavoratori che non sono studenti. Basta con questa idea di dare la colpa alla scuola per il caos dei trasporti, pensando che chiudendo le scuole decongestioni il traffico. Non è così, sì. Cioè, perché ci sono tantissime persone che non hanno scelta, non possono neanche fare lo smart working, perché ci sono decine e decine di categorie di persone che non lo possono fare. Sì. Alle quali le aziende non lo consentono molto semplicemente, perché certo. Poi anche su questo fronte non tutte le aziende si stanno muovendo in linea, sì. Su questo fronte, Elisa, prego. Allora, anziché chiudere le scuole, bisogna mettere la testa e risolvere il problema dei trasporti, aumentare i mezzi. Solo che certo, farlo adesso è impossibile, lo sì, dovevi far prima. Sì, certo, ci dovevi pensare appunto quando sono arrivati i soldi che sono arrivati a giugno, luglio, adesso a giugno se non vado errato. E appunto ci sono questi 180 milioni di euro non spesi. Chiaro, lo dico all'ascoltatore che lo scrive ironicamente, ho capito, adesso è colpa delle regioni. No, non è solamente colpa delle regioni. Guardi, qua su come è stata gestita questa seconda ondata, su come viene gestita in questa fase, in questo ordine sparso, secondo me responsabilità vanno attribuite brutalmente un po' a tutti. Se vogliamo dividerle, 33% al governo, 33% alle regioni, 33% ai comuni che non hanno programmato lo scaglionamento e la riapertura delle scuole, lo scaglionamento dei trasporti pubblici, che è una responsabilità tanto delle regioni quanto dei comuni. Quindi così chiariamo bene che su questo fronte la gestione non è stata un granché, un po' da tutte le parti. C'è tutto il fronte, cara Elisa, e si riapre politico con Italia Viva che si fa sentire. Sentiamo Faraone di Italia Viva, va. Da una parte la proposta di Conte di verificare a 15 giorni gli effetti del DPCM, che noi abbiamo accolto pur non avendo condiviso le scelte fatte, avendolo detto in tutte le sedi in cui era possibile dirlo, istituzionali e di maggioranza. Prossima volta faremo le riunioni streaming per dimostrare che è così. Perché c'è un po' questo scontro interno alla maggioranza, lo chiariamo agli ascoltatori. Italia Viva si è schierata contro le ultime restrizioni prese dal governo, le ultime decisioni prese dal governo. Non è tanto un ragionamento di più o meno restrizioni, quanto un ragionamento non dovevano essere queste. Il PD si è subito arrabbiato e gli ha detto dovevate dirlo mentre valutavamo il decreto. Faraone qua gli risponde e gli dice guarda che l'abbiamo detto ma voi non ci avete filato, e quindi adesso ci facciamo sentire con Renzi che oggi sui giornali parla della necessità di un chiarimento nella maggioranza. Detto ciò, Elisa, se posso, tu che poi di cronaca parlamentare ti occupi tanto, molto, molto cinema, ma non è che questo comporterà chissà quale sommovimento all'interno della maggioranza, che dici? Ma no, assolutamente, nel senso che tanto più in una situazione sanitaria come quella che stiamo vivendo è impossibile fare una crisi di governo. Detto questo, c'è una insofferenza evidente attorno al governo, attorno a Conte, dovuta a una cosa molto semplice. Rispetto a marzo, quando diciamo aveva un consenso generalizzato, perché diciamo gli italiani erano sbalorditi dalla vicenda, e diciamo così si era creato un moto di affidamento al Presidente del Consiglio. Adesso quella fiducia generalizzata non c'è più, cioè vedi le piazze, le tensioni sociali, le proteste di tutte le categorie sociali, e questo sfilacciamento del consenso dietro a Conte fa sì che anche i partiti della maggioranza prendano le distanze, perché hanno capito che non è più il salvatore della patria Conte, e quindi banalmente ognuno incomincia a sollevare critiche. Questo è sì, tema. O forse ognuno non aspettava altro, a dire la verità, che inciampasse il Presidente del Consiglio, o apparentemente inciampasse. Salvini. Ragazzi, come con le cartelle esattoriali, qua il problema non è rinviare di due mesi il problema. Possiamo fare un'agenda, un calendario? Faccio l'esempio del Veneto. Il Veneto ha fatto una roadmap in base alla quale, numeri alla mano, si decide cosa chiudere o cosa aprire. Gli italiani chiedono certezze, non si può andare avanti a colpi di decreto del sabato sera per capire chi va a lavorare e chi resta a casa la domenica mattina. E ha ragione l'ascoltatore che mi chiede di non generalizzare, perché le regioni non hanno agito in maniera univoca, ce ne sono alcune che hanno agito in maniera diversa. Mi porta l'esempio dell'Emilia Romagna. Guardate, io vi porto un esempio su tutti, non è una celebrazione del modello dell'Emilia Romagna, ma è semplicemente quello che è stato fatto. L'abbiamo raccontato tante volte, le regioni avrebbero dovuto costituire le USCA, che sono delle unità territoriali che si sarebbero dovute occupare esattamente delle persone che si ammalano di Covid o che hanno un sospetto di Covid, per non intasare i pronto soccorso. Ebbene, La Lombardia ne ha costituite circa un 30% di queste USCA, lamentando problemi perché non si fatica a trovare il personale, si fatica a trovare i medici che ci entrano. L'Emilia-Romagna ha costituito tutte le USCA che avrebbe dovuto costituire e dall'estate fino ad oggi hanno erogato 70.000 prestazioni. Ok, quindi si poteva fare e qualcuno non ha fatto. La Lombardia, la Campania, quindi così ci mettiamo tutte le parti politiche possibili, eh? La Lombardia, la Campania, la Puglia, tutto quello che volete. Ebbene, qua in Emilia-Romagna le cose sono riusciti a farle funzionare. Traffico. Mattino. Qualche ascoltatore dice: però la percentuale di responsabilità dei cittadini non ce la metti in questa vicenda? Ma guardate, sì, c'è una percentuale di responsabilità dei cittadini, e però mi fate dire anche che noi abbiamo ricevuto tra maggio e giugno una quantità di rassicurazioni enorme. Prendete il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il Locatelli, che è anche nel comitato tecnico scientifico ed è solo una delle voci, poi domani le raccogliamo un po' tutte e ve le faccio sentire. Sentiamo Locatelli. Io credo che la cosa fondamentale sia farci trovare preparati a gestire questa seconda ondata, che comunque dovesse mai esserci, personalmente non ritengo avrà le dimensioni alla portata della prima. Eccolo qua, è uno dei tanti, e comunque dovesse esserci non avrà mai le dimensioni della prima. Opinione personale, per carità, però detta da un componente del Comitato Tecnico Scientifico in TV. Quindi è vero, sì, sarà anche un po' colpa nostra questa ripartenza del virus. E però, ragazzi, anche gli audio di Conte che dice siamo pronti per la seconda ondata, di Arcuri che dice siamo pronti per la seconda ondata, li abbiamo tutti quelli là, Ne abbiamo tutti e domani li recuperiamo e ve li facciamo sentire. Quindi preparatevi, collegatevi domani mattina. Andiamo in Francia e però fatemi partire non dal lockdown francese, anche se ci arriveremo, ma dallo scontro tra Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco. Saluto, torna da noi, Sandro Gozzi, europarlamentare di En Marche. Gozzi, buongiorno. Buongiorno. Bentornato, eccoci qua. Grazie. Allora, la vicenda la sapete, inizia tutto con l'uccisione di Samuel Paty, insegnante, che è stato decapitato dopo aver mostrato in classe, in una lezione nella quale in realtà si parlava esattamente della questione di integrazione, tolleranza, come gestire tutto questo, viene decapitato. Cosa succede? Si accende uno scontro perché il presidente francese Emmanuel Macron decide di agire duramente sulle moschee che possono fomentare l'estremismo. Alcune di queste sono collegate a delle organizzazioni di fatto emanazione di Ankara, dello Stato turco, e là parte uno scontro terrificante nel quale Erdogan accusa l'Europa di essere nazista, attacca Macron anche personalmente. L'ultimo atto è Charlie Hebdo, lo abbiamo raccontato ieri, che pubblica una vignetta di Erdogan che guarda sotto la gonna di una donna velata e dice: oh, eccolo qua il profeta, più o meno così, Gozzi. Allora, il livello di tensione è altissimo in questo momento, mi pare, con la Turchia. Sì, è molto alto perché siamo agli antipodi tra Macron e Erdogan. Macron sta facendo una battaglia per le libertà fondamentali, per la libertà di insegnamento e per la libertà di espressione. Sta lottando contro l'Islam politico, cioè sta lottando contro tutti coloro che vogliono organizzarsi politicamente, promuovere gli islamisti, ed è questa la ragione principale delle azioni e anche della chiusura, come avete detto voi, di alcune associazioni che sono chiaramente manipolate. Cosa vuol dire islam politico? Vuol dire un praticare la religione in maniera incompatibile con i valori della Repubblica. Vuol dire fare delle scuole separate dalle scuole della Repubblica. Vuol dire voler imporre nel nucleo familiare delle regole di società che sono in violazione delle regole della Repubblica. E questo è esattamente quello che sta facendo Erdogan, che ha islamizzato la Turchia e che sta utilizzando le reti dei fratelli musulmani nel mondo, e quindi anche in Europa e quindi anche in Francia, in maniera politica. Questo è il punto fondamentale, e da questo punto di vista credo che Macron stia facendo una battaglia non solo per i francesi ma anche per tutti gli europei, direi per quello che noi una volta chiamavamo Occidente. Senta Gozi, glielo chiedo quasi da analista, perché lei è stato anche sottosegretario agli affari europei, si occupa di esteri da molti anni, quello nelle parole di Erdogan, nella durezza dello scontro ci vede anche una debolezza del leader turco? Abbiamo i dati dell'altro giorno che ci raccontano, o meglio di questi giorni, che ci raccontano di una lira turca che sta continuando a precipitare, quindi anche segnali forse di debolezza economica, che dice? Direi assolutamente di sì, disoccupazione al 25%, lira turca che sprofonda, situazione economica molto difficile in Turchia e quindi ricerca del nemico esterno o del diavolo, come in Turchia, in Pakistan e in Iran hanno descritto in alcune vignette, in alcune caricature Macron. Quindi certamente c'è anche una necessità di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica turca da una situazione che è sempre più difficile dal punto di vista economico e sociale turco. E poi c'è la volontà di legittimare di un'azione per l'Islam destabilizzante che Erdogan sta portando avanti nel Mediterraneo, sta portando avanti nel Medio Oriente, sta portando avanti nel Caucaso e guarda caso sempre di più d'intesa o comunque in armonia, diciamo così, con l'Iran, il quale sostiene Erdogan nel conflitto tra Azerbaigian e Armenia, l'Armenia che è il miglior alleato della Francia nel Caucaso, che è arrivato in Libia, come gli italiani stanno bene, e credo al quale bisogna rispondere anche con delle sanzioni a livello europeo nel momento in cui il summit si terrà in dicembre. Teme che questo, ormai sembra una cosa relegata al remoto passato, eppure parliamo di solamente una quindicina di anni fa, quando parlavamo di scontro di civiltà, insomma, tutti ce lo ricordiamo dopo gli attentati dell'11 settembre, teme che si possa arrivare a una situazione di quel genere, perché le parole di Erdogan stanno oggettivamente incendiando un pezzo del mondo arabo. È quello che Erdogan e gli iraniani vogliono fare. Gli iraniani, nel momento in cui si rivolgono ai giovani in Francia dicendo Macron non vuole tutelare la libertà ma vuole discriminarvi, o Erdogan che dice che le misure prese contro i terroristi islamici in Francia equivalgono alle misure dei nazisti contro gli ebrei, perché questo è stato detto, sì. È chiaro che loro tendono a infiammare. Quello che si vuole fare in Francia è da una parte isolare i terroristi e dall'altra avere un Islam che sia compatibile con i valori della Repubblica francese, quindi con quelle libertà che nello spazio pubblico vengono prima di qualsiasi religione, quindi prima anche dell'Islam. Poi è chiaro, ci sono dei toni che lei si legano anche a delle scelte interne. Quando Erdogan, io lo capisco, lasciatemi dire, capisco che Erdogan consideri Macron avere dei problemi di salute mentale, perché si batte per lo Stato di diritto e le libertà fondamentali. Erdogan da anni sta violando e sta comprimendo lo Stato di diritto e le libertà fondamentali. Battersi per questi valori, capisco che per Erdogan possa essere un malato di mente, ma sì. E il punto è che finalmente c'è un leader che ha il coraggio di tutelare le nostre libertà anche di fronte alle derive islamiste, e non cercare di fare passare in secondo piano o di abbassare i toni sperando che questo fermi i terroristi o fermi gli estremisti. I estremisti vanno fermati con tutte le armi che una repubblica, una democrazia dispone. Allora, mi sarebbe piaciuto molto parlare con lei anche di, del lockdown francese, ma in realtà non abbiamo più tempo, ma va bene così perché abbiamo dedicato 5 minuti a un argomento importante e abbiamo staccato la testa da Covid. Grazie Sandro Gozzi, grazie Elisa Calessi, inviata di Porta a Porta, collaboratrice di Libero, GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.